quanta gente dentro. Ehi, nella vita. Ehi, quanto spazio dentro. Ehi, per fatica. Questa vita. Quando guardi dentro, non capire se ci sei o se stai dormendo, non è più così. Ad aspettare il tempo.